Radio 24 Reportage. La grande bellezza. Roma si risveglia senza turisti stranieri. Di Giorgio Stamatopoulos. Noi dalla Toscana, provincia d'Arezzo. No, in realtà volevamo andare al mare, però si è detto, ma quando ci ricapita ad andare a Roma con così poca gente, di goderci un po' le nostre belle ricchezze? In due giorni si spera di far tutto. Chi apprezzerà di più? L'oste, insomma, dell'albergo dove siamo arrivati è stato molto accogliente, infatti si vede che c'è stata un po' di sofferenza nelle settimane scorse. C'è voglia di ripartire. Milanesi. Siete venuti a Roma? Portarvi un po' di soldi. Comunque è molto vuota. Da un lato è buono per i turisti, da un lato un po' meno per i romani. Mi ha colpito molto il fatto che non aver mai vista così vuota, di potermi muovere anche col taxi che ve lo velocemente. Di solito invece stavi seduto in taxi per ore, anche le catene che chiudono i negozi, i punti vendita, quello lo vediamo tanto. Dove avete alloggiato? Se è un B&B, un albergo classico? Un albergo, cos'è, l'NH, quello nella stazione Termini. È molto vuoto, cioè era proprio surreale, sembrava Shining. Veniamo da Napoli, turisti vicini. Cosa vi ha colpito di più? I pochi turisti. Vedere la città che normalmente è molto affollata, vederla con poche persone, comunque è un clima in cui si vede che è successo qualcosa di grave. Roma è una città speciale, però come diceva mio marito poc'anzi abbiamo trovato una città deserta, sembra un po' surreale. Abbiamo notato anche prezzi abbastanza più bassi, anche il prezzo del bed and breakfast che è molto bello dalle parti del Quirinale, prezzo che normalmente Roma non si consente un prezzo così basso. Reggio Emilia, dovevamo avere il concerto di Vasco e siamo venuti lo stesso. È un'altra città, bellissima. Ma i romani non sono tanto contenti. Certo, neanche noi a Reggio Emilia siamo contenti, però per i turisti è veramente tanta roba. Addirittura un barista ieri quando siamo passati col trolley ha detto che bello sentire il rumore delle ruote dei trolley, era quasi emozionato. È un effetto strano, però molto più bello così. Capisco che non saranno contenti quelli che hanno le attività ricettive, però a noi romani ci piace più così. Il turismo ci vuole, però farsi una foto così a Fontana di Trevi liberamente è piacevole. Io sono svedese, abito in Lombardia ed è sempre bello venire qui. Di solito ci sono troppe persone e dobbiamo continuare a vivere anche dove abito. Una stanza in affitto, quelle molto belle, tipo albergo, ovviamente sì, è vuoto. Per cui non moriamo di Covid, ma moriamo di fame. Per tanti purtroppo è così. Benvenuti nel centro storico della capitale, il più grande museo a cielo aperto del mondo, che oggi appare come una città fantasma ai pochi turisti, quasi tutti italiani, che si aggirano tra alberghi, negozi e ristoranti rimasti per la maggior parte chiusi e dove chi ha riaperto descrive una lenta agonia priva di prospettive. I turisti se ne vedono pochissimi. Teniamo aperti per non chiudere. Siamo al Colosseo, ma il turismo non lo vediamo. Senza turista purtroppo qui al centro non si lavora, gli incassi sono bassi, sempre più ragazzi a casa. La cassa integrazione purtroppo ancora non è arrivato niente. La gelateria senza turisti, senza gente che viene, comunque i prezzi, sai, siamo a Piazza di Spagna, non è che possono, comunque sono abbastanza elevati, la vedo molto dura. Qui è un mortorio tutti i giorni. Noi abbiamo aperto il 18 di maggio, siamo oggi 20 di giugno, non c'è nessuno. Veniamo per non stare a casa. Noi siamo fermi da febbraio, 5 mesi che non lavoriamo per niente, non riusciamo a pagare nemmeno gli affitti. Quindi è tutto debito che si sta accumulando? Sì, sì, ovviamente sì. 25.000 sono riuscito a prendere dopo 3 mesi di lotte, però 25.000 in 2 giorni finiscono. Perché le tasse continuiamo a pagarle, le utenze elettriche continuiamo a pagarle, i dipendenti li dobbiamo pagare, i fornitori vanno pagati. I cavalli li diamo da mangiare a noi, di tasca nostra. Non c'è da né il comune né animalisti, gli diamo di tasca nostra da mangiare. E mi conviene chiude e na rubà. Piazza Trevi, il punto più bello del mondo, dove c'è un bottega, negozio. Non si vede nessuno. I negozi aprono qui, i bar, il sabato e la domenica, tutta la settimana sono chiusi. Chiuderemo pure noi? Boh, vedremo. La cassa integrazione non arriva. Quanti dipendenti ha? 3. Non l'ha chiesti dai 25.000? No. Perché devo pagare con 25.000 euro? I primi di luglio apriranno anche i voli internazionali, no? Io abbassare le serrande non lo voglio fare. Sono stata chiusa anche 70 giorni. Stranieri ancora molto pochi. Venuta gente da Udine, da Torino, qualche napoletano, qualcuno si è spostato fra le regioni. Però dall'estero niente. Non ho visti di passare, qualche tedesco in particolare, che li senti parlare, però non è che si fermano a mangiare, ancora no. Sentono dire che in Italia c'è il Covid, non è magari lontano. Lombardia o nel Lazio non c'è niente, in Sicilia ci devo andare tranquillamente. Però l'informazione di in Italia c'è il Covid, quindi tanti per paura non si spostano. Prima era un continuo dalla mattina al pomeriggio alle 4, alle 5, non c'è uno stop, noi facevamo uno stop dalla mattina con gli stranieri alle 11, già tanti cominciavano con le omelette, il bacon, queste cosette, fino a mezzanotte era un continuo, invece adesso niente. Io sono incassato un decimo, ma nemmeno, ma meno di un decimo di quanto incassavo prima. Aspettavo che aprivano i voli europei per vedere se si muoveva qualcosa, anche se minima parte, però testavo poco e niente. Noi abbiamo 5 alberghi, al momento siamo operativi su 2, piano piano ci stiamo riprovando, comunque la perdita è consistente, basta girare per Roma e si vede. Qualcosa inizia a muoversi, specialmente da luglio. Qualcosa dalla Svezia, qualcosa dalla Germania, al confine la Svizzera, ma più di quello purtroppo no. Nel Colosseo ogni giorno entravano 30.000 visitatori, oggi solo qualche centinaio. Lo stesso vale per i Musei Vaticani, l'altra meta fra le più gettonate della capitale. Tra questi due estremi, tra il prima e il dopo Covid, si colloca un danno economico complessivo per tutto l'indotto che, secondo uno studio del Comune di Roma, supera i 14 miliardi, come ci spiega l'assessore al turismo del Campidoglio, Carlo Cafarotti. Un danno intorno ai 14 miliardi su tutto il valore aggiunto romano, che ricordo essere 151 miliardi. Quindi già questo dato ci dà l'entità del danno. Aggiungo che oltre l'85% delle strutture alberghiere avevano dichiarato la loro sospensione delle attività, quindi di fatto avevano chiuso, e di queste soltanto 185, quindi soltanto un 20%, ha poi riaperto. Quindi abbiamo ancora, dal punto di vista numerico della città, evidente una situazione di stallo, non c'è al momento la ripresa dei flussi turistici, non si ripristineranno a breve. Tenete presente che ad esempio su agosto il tasso di internazionalizzazione, quindi il numero di turisti stranieri sulla città, lo scorso anno ha superato l'82%, quindi ad agosto, fatto 100 i turisti che giravano, 82 erano stranieri. Quindi puntare sul turismo locale italiano e di prossimità, così come diciamo ha fatto il governo, ha comunque un impatto sull'economia romana che è molto limitato. Quindi il danno della filiera è enorme e rimarrà fino a che non si ripristineranno i flussi di turisti stranieri. Un bollino di garanzia anti-Covid per restituire un'immagine di sicurezza della città e un accordo siglato con la piattaforma Airbnb per la riscossione della tassa di soggiorno sono due dei provvedimenti messi in campo dal Comune, mentre la Regione Lazio ha stanziato fondi destinati alla filiera della ricettività e degli operatori turistici, fondi che, secondo l'assessore al turismo regionale Giovanna Pugliese, dovrebbero accompagnare una ripartenza. 21 milioni e mezzo di fondi perduti che sono andati per la nostra ricettività, ossia noi abbiamo messo un bonus a fondo perduto per aiutare la ripartenza, quindi la sanificazione, la manutenzione per tutte le strutture alberghiere di tutte le categorie, quindi dai 5 stelle ai 3 stelle, poi per l'extra alberghiero imprenditoriale e non imprenditoriale, che vuol dire appunto campeggi, case vacanze, ostelli, e poi anche per l'extra alberghiero non imprenditoriale, che sarebbero i B&B, quelli però che sono nel nostro sistema, ossia che hanno un codice identificativo che vuol dire che sono B&B in regola, quelli sono stati premiati, e poi un fondo di 1.500 euro per tutte le agenzie di viaggio e tour operator. Abbiamo voluto partire con queste misure proprio per sostenere l'accoglienza, perché quando il turismo ripartirà come sta ripartendo, noi dobbiamo dare un'accoglienza sicura. Tra i provvedimenti poi altri assessorati, come quello al lavoro, ha fatto un provvedimento molto interessante per il lavoro sospeso, un bonus di 600 euro che noi speriamo sia stato raggiunto da molti nostri stagionali, che sono quelli più in sofferenza, da molte guide turistiche, quelle che non sono riconosciute come partita IVA, cioè diciamo che speriamo che tutto l'indotto del turismo in qualche modo possa aver trovato un piccolo ristoro nelle tante misure della Regione Lazio e in quelle che arriveranno sempre più forti del governo. Ma intanto a pesare di più è l'assenza del turismo organizzato, quello che viene da lontano, soprattutto quello americano, come ci racconta Federica Federica Fontana, guida abilitata di Roma. Roma può ripartire quando tornano gli stranieri e alcune categorie specifiche, soprattutto i turisti dagli Stati Uniti. Se si guardano le presenze alberghiere si capisce perché. Storicamente il turismo statunitense a Roma e altri, ovviamente, possiamo parlare anche dei giapponesi, tanto. Ovviamente è un turismo anche che compra, che spende, che va in albergo, che visita, che prende visite guidate, organizzate. È quello che rende questa città ricca, va al ristorante. Finché non tornano loro, Roma non riparte. L'assenza dei turisti mostra anche quanto Roma negli ultimi anni si sia modellata sempre più sui bisogni di un turismo di massa che nel frattempo ha espulso il tessuto sociale originario dal centro storico e impoverito quello economico fatto di negozi di prossimità e botteghe artigiane. Un processo che ad oggi mostra tutti i suoi limiti ma che nessuno sa come rendere reversibile. Intanto, con la tipica ironia cinica che i romani usano per superare i momenti difficili, il vetturino di una botticella spiega così i pochi turisti stranieri avvistati in questi giorni. Se c'è qualcuno vuol dire che si è perso per Roma, ecco perché. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.